facile volarancia tre nuve da che la mia Violetta oggi per me lasciò novizie amori e le pompose feste o quali omaggi a pezza vede a schiavo ciascun di sua bellezza e mor contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me qui presso lei io rinascer mi sento e dal soffio d'amor rigenerato scorrono le gaudi suoi tutto il passo l'ardore e la tempro col placido sorriso dell'amor dell'amor Baldi che disse vivere io voglio a te che disse vivere io voglio a te vedere sì l'universo in memore io vivo quasi in cielo io vivo in cielo dell'universo in memore io vivo quasi in cielo sì, io vivo quasi in cielo io vivo quasi